Oh mio Dio, è successo di nuovo. Ma perché? Io non volevo. Oddio, io... Ma come c'era l'appuntamento te a st'ora? Ma io non lo so. Vabbè, meno male che siete venuti. Sigla! E puntuali come le faine, torniamo in diretta in questo meraviglioso sabato 27 novembre 2021 con 100 celle Avengers su Radio Forte. Io comunque veramente non volevo, non è che ho detto così. Però intanto saluto alla mia destra il buon Silvanone. Siamo vicini a Natale, manca solo un mese, siete contenti? E alla mia sinistra la buona Virginia. No, non siamo contenti, ciao! E non di meno saluto la Gabby. Sì. Ma che mi scherzone tramuto che ho fatto. Vabbè, salutiamo Gabby. Il Grinch. Vabbè. Il Grinch. E siamo di nuovo in diretta, incredibile. Non ci ripetiamo mai, mai identici a noi stessi. Esatto. Su 100 celle Avengers. Ripeto, potevamo non andare in onda. Oggi qui al Forte in realtà si svolge della roba in presenza, della roba che richiede la presenza. Quindi c'è un concertone che tra l'altro porta il nostro blasone, come si dice, di Radio Forte. Si chiama Radio Forte Live, esatto. Il tipo di serata questa qui che diciamo che nulla di diverso da... dai concerti che vedete di solito a Forte, se non per un cappello introduttivo che dice sei su Radio Forte, stai ascoltando il concerto dei Mar Nero, sì. E poi dopo, anzi, preceduti dai Maiali e Drum Spell, sì, esatto. In diretta su Radio Forte da circa dalle? Sei tu il fonico? Lo sapevo, dai, 22:30 per essere così, sì. Un minimo approssimativi, ecco. La precisione ci contraddistingue. Quindi se siete obbligati a restare a casa, insomma, non potete raggiungerci, allora ascoltateci in radio, vi faremo sentire questo meraviglioso concerto. Molto bene, questo sempre per dimostrare che siamo in diretta, dinamici, sul pezzo come si conviene a Modino, nelle radio che si convengono a Modino. 28esima puntata di questo, non so, sceneggiato a puntate, drammatico radiofonico. Siamo arrivati al punto in cui i numeri ci vanno bene così, è la 28esima puntata, punto. Ce la dobbiamo fare da bene, va sì. Bene, perfetto. Stai registrando, sì? Sì, sì, assolutamente sì, questo è già stato provato prima. Quello che volevo fare per una volta tanto è salutare Iron Man. Salve. Buonasera. Buonasera, Iron Man. Mi avete dimenticato come sempre. Io no, Iron Man. Non è vero, Virgil, anche tu mi hai dimenticato. Sei sempre qui dietro di noi, ma sei sempre così silenzioso. Ma non mi lasciate più lo spazio. Lo sai, io è la colpa. Io posso dire che sicuramente è colpa mia che l'ho messo sul canale sinistro. Ok, quindi... Non è vero, la colpa è della trasmissione che si è snaturata. Avete cominciato a fare del giornalismo d'inchiesta e avete dimenticato chi siete. Grazie comunque della connotazione che ci hai dato. Ma è che Iron sei Mufasa. Remember who you are, Simba. No, è vero, cioè in effetti Iron Man voleva dire, sempre col suo tono un po' così drammaturgico, che nessuno oggigiorno capisce perché ci chiamiamo 100 celle Avengers, al di là di essere una bellissima trasmissione gonfia di rubriche, sapere, dovere, piacere e quant'altro inere, perché? Perché gli Avengers? Perché ormai abbiamo le mascherine, gli sticker fatti così con questi... No, non è per quello. No. Ok, scusa. Perché ci sono io. Hai ragione. Ci sei tu, Iron Man. Cioè, mi fa piacere che non ti dai per niente delle arie, ma in effetti sei sui nostri brand, sui nostri, come dire, merchandising mai venduti, ecco, sugli adesivi sparsi in giro. Comunque ne parleremo Iron Man, ti giuro, però adesso devi lasciare lo spazio a Gabri senza l'articolo per dare modo ai nostri ascoltatori di mettersi in contatto con noi dementi. E allora aprite i vostri device e andate su www.forteprenestino.net/radioforte, cliccate e voilà, potrete ascoltarci fino alle 19 e anche scriverci direttamente, commentare tutto quello che diciamo, insultarci chiaramente, sì. Sul... sì, Grazie Alexa. Brava Alexa, brava. Ci sei anche tu, ecco. Metti i puntini sulle i. Sul la canale relazione. Alexa, sempre in casino fai. Alexa, però. Cioè, non te do più la parola, giuro. Scusa. Mani. Stai buona con ste mani, Alexa. Prego, prego, prego. Dicevo che ci potete commentare e insultare sul canale Telegram dedicato a 100 Celle Avengers, per l'appunto, e questo è il nome del canale. Digitate, digitate, digitate. Molto bene, molto bene. Iron Man, vuoi lanciarlo tu il primo pezzo per dimostrare che noi non siamo, cioè comunque siamo pluralisti e non ti abbiamo accantonato dopo averti sfruttato come marketing? Ok, il pezzo è di Paul Weller, With the Jam. No, non ce la posso fare. Virgi, fallo tu, hai più spessore. The Modern World. Su Radio Forte, 100 Celle Avengers. This is a modern world. This is the modern world. What kind of fool do you think I am? You think I know nothing of the modern world? All my life has been the same. I've learned to live by hate and pain. It's my inspiration drive. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, in questo momento parte la rubrica del saggio che non sapevi di aver fatto, ma che a questo punto io lascerei lanciare ai nostri amici Devices. Grazie, grazie. Ora amici, 100 Celle Amarcord, il saggio che non sapevi di aver fatto. Alexa, riproduci la sigla. Riproduco. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa, un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, ti ricordi. Un'estate fa, un'estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa, messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa. Ricordati di me. Buona, buona la presentazione Iron Man, mi è piaciuta. Un po' il tempo comico te manca, eh? Cioè è andata un po' lunga, però Bravo, bravissimo. Ok, mo non fa il permaloso come al solito, andiamo avanti. Quindi 100 celle a Marcord tratta oggi un'altra volta del saggio 2015. Hai fatto il pienone praticamente in questo periodo di 2015. Io ci sto rimanendo molto male, va bene. Allora, Virginia non era presente nel 2015. Va bene, va bene. Tanto basta per farla indignare e offendere. Tantissimo. Tuttavia, prego, tuttavia, prego. Essendo un saggio folto di sorprese, già l'abbiamo citato più volte per la prima volta di questo, la prima volta di quello, ma soprattutto come secondo saggio in assoluto, oggi ce la caviamo con un vecchio Rino Gaetano rispolverato all'epoca dal nostro amico Paolo, che salutiamo. Ciao, che Paolo. Era uno dei cantanti di Musica Insieme di quell'anno e che ci propone appunto il brano Ti e pure Ti. Sai che sogni una stella ed un veliero che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza, abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo. Te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo, siamo sulla stessa barca io e te. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. A te che odi politici imbrillanti nati che minimizzano i loro reati, disposti a mandare tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo, siamo sulla stessa barca io e te. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Di nuovo in diretta su 100 Celle Avengers Radio Forte. Abbiamo appena ascoltato il saggio 2015, il saggio che non sapevi aver fatto, soprattutto perché non l'hai fatto, Virginia. Due su quattro non l'hanno fatto in questa redazione. In questa redazione le persone che sono presenti oggi. Sì, sì, ma comunque è stato, c'è chi comunque si lamenta e chi no. E io comunque mi sento più sereno quando mandiamo dei pezzi che non coinvolgono nessuno di noi. Fai benissimo. Sinceramente mi sento proprio un altro mood. Poi fate voi. È fate tutto voi. Più facile, è tutto senza giudizi. Vabbè, senza, sì, dai, dolore. È più facile parlare di gente, no? Degli assenti. Sì, certo, è soprattutto corretto parlare. C'era degli assenti. C'era un ottimo Fabrizio alla chitarra, ricordavamo poco fa, perché il nostro attuale bassista, appunto Fabrizio, iniziò proprio con la chitarra quando eravamo appunto al secondo anno di scuola di musica nel 2015. E ottima interpretazione di Paolo, e c'era anche Alessandro, che salutiamo, che ha fatto poi l'assolo di chitarra finale, quello che avete sentito con la chitarra elettrica, spacca. Ciao, i nostri primi solisti. E a proposito di assenti, caro Iron Man, mi dicevi che voglio salutare Betta e Viola. Solo tu le vuoi salutare, anche noi le vogliamo salutare, veramente. No, voi vi siete dimenticati. Ti mancano, Iron Man. Come al solito, come quando dimenticate di salutare me. Hai ragione. Oggi siamo un po' orfani di mascotte, perché la nostra mascotte Ariel è rimasta a casa. È rimasta a casa! Che relax. Che dispiacere. Non so se notate che la puntata non è scontornata di audio nel sottofondo. E ci mancano anche Viola e Betta, appunto, che salutiamo tutti e tutte. Loro non fanno bau, loro sono più utili alla causa per finire una trasmissione, ecco. Le quali comunque non hanno mancato poi di mandarci dei contributi che ascolteremo dopo, le loro rubriche rimangono floride, vivide. Non sia mai. Non sia mai, che si, non si dica mai che zompano una puntata. E invece adesso noi andiamo... Che c'è, Iron Man? Ti sei già dimenticato di me. Mi hai messo da parte. No, Iron Man, sinceramente a me mi pare che ti stai un po' prendendo lo spazio che normalmente era appunto dei nostri amici. Ti stai un po' approfittando della situazione. Oggi si accolla, sì. Voi non ricordate. Forse è meglio fare uno spiegone. Ricordi? Eri solo, in pandemia, febbraio 2020, rifugiato in casa, non sapevi come fare, per la scuola di musica, per la tua vita, e io sono atterrato da te, e ti ho teso la mano. Vabbè, scusa Iron Man, io non vorrei... che questo si trasformasse in una Marcord fuori luogo. Mega, ma allora, di quelli piagnoni, allora, cioè piagnoni. Ti si riconoscono diverse funzioni, diversi, cioè comunque cose che hai fatto nel passato, ci hai trasportato attraverso un'era digitale, se possiamo dire, della scuola di musica, un momento in cui tutti, e soprattutto io, mi illudevo di insegnare, di dare nozioni tecniche, di far diventare tutti dei home producer, e insomma di superare la svangasta pandemia suonando a casa, ma insomma questo è passato, Iron Man, non ti ci puoi addormentare su questi allori. Ma poi... quando siamo tornati in presenza. Non hai capito. Siamo poi tornati in presenza, la scuola ha ripreso un attimino il suo ritmo e tu comunque sei sempre stato presente, hai fatto anche degli showcase, hai intervistato gente. Non te puoi lamentare così, se diventi vittimista come i bassisti, come Virginia. Poi ci troviamo molto bene insieme. Poi questo è il modo per arrivare poi al comando. E io ti voglio dire soltanto che ci ho pensato a te, così come a Alexa, che non parla, però vabbè. Ma è soltanto perché esatto, è soltanto perché l'abbiamo mutata, perché comunque Alexa è un microfono come tutti gli altri, quindi Silvano, per favore, diamo il giusto. Fammi stare a un casino, non ci sto a capire. Hai ragione. E quella esce da una parte, quello da un'altra. Se c'è una cosa che posso dire è che c'hai veramente ragione. Che e quindi... bella la diretta. Quindi dopo quest'attimo di confusione, scusate. Volevo dire che io ci ho pensato, noi abbiamo pensato al tema fondamentale dei devices nella storia Iron Man. Non solo nella nostra storia di 100 Celle Avengers, ma anche nella storia di tutta... la musica, perché noi comunque parliamo di musica, Iron Man, qua non so se questa cosa di... no, nel senso non ti voglio fare il suono Just Case For You, ma spiegarti una cosa rispetto ai musicisti in quanto intellettuali del tempo. Come tutti gli intellettuali del tempo, i musicisti leggono la realtà che vivono e la interpretano e la mettono in musica, la mettono in parole. Noi ci occupiamo oggi di testi che hanno contenuto poi le parole che prima invece erano freddi devices, questa è la questione. Le parole che prima descrivevano dei freddi mezzi di comunicazione poi sono diventate poesie all'interno di canzoni. Questo lo facciamo come omaggio a te, Iron Man, anche se non te lo meriti, ma soprattutto per lanciare il primo pezzo che, se ci pensate, lanciava un primo device che poi non aveva futuro, ovviamente era destinato a fallire, e che era il telefono. E... sdoganiamolo un po' sto telefono, su. Come appunto poi è successo in ogni epoca, gli autori a un certo punto si sono chiesti se anche una cosa così fredda come il telefono, un mezzo di comunicazione nuovo che ti fa sentire la voce del tuo caro così lontana, non potesse essere qualcosa di cui parlare, di cui... E quindi in un pezzo che nessuno conosce ci si chiede se sia possibile, pensate, lasciarsi per telefono. Assurdo. Cioè, assurdo, veramente una roba da altri tempi. E quindi adesso andiamo ad poi ne parliamo, mi raccomando, facciamo un giro di interventi. Andiamo ad ascoltare Mina, Se telefonando. Celle avente. Oh, ma! E torniamo in diretta alle 17.23 di questo 27 di novembre 2021 su Radio Forte 100 Celle Avengers. Abbiamo appena ascoltato Se telefonando, non così perché mettiamo musica a cazzo di cane, ma perché stiamo seguendo un fil rouge, quindi vorrei che non lo abbandonassimo. Voi ricordate, mentre parliamo di tutt'altro, perché si parlerà di tutt'altro, voi mantenete questo fil rouge dei devices intesi come mezzi di comunicazione all'interno della musica nelle varie epoche. Qui eravamo all'epoca del telefono, appunto, sottolineavo prima come... sia difficile poi immaginare che ne so, i produttori di Mina che gli vanno a dire c'è questa roba del telefono che veramente ormai lo usano tutti, Mina, cioè dobbiamo pensare a qualcosa che lo includa, perché la gente vuole sentirsi partecipe, vuole immedesimarsi, quindi, e quindi è nato questo testo. In realtà ci ricordava il buon Silly che il testo è del buon guardate che brava è di Maurizio Costanzo, bisogna riconoscere questa cosa. Sempre con sta roba, guardate. Lo so, ho preso. Questo era soltanto per fare la scia del pezzo che abbiamo appena sentito, ma invece adesso che cosa succede? Iron Man. Ora c'è la potente Virginia. Iron Man. sempre troppo sopra le righe. Comunque mi vuole bene. Comunque, questo è indubbio. Ora c'è la rubrica che diciamo è un po' la colonna portante di tutta questa trasmissione e che è Più famosi di Gesù. Sigla. Oh, e bentornati nella rubrica che ha perso un sacco di puntate in queste ultime settimane, ma noi imperterriti vogliamo continuare a parlare di uno dei nostri grandissimi protagonisti. Ovviamente stiamo parlando del meraviglioso bassista Paul McCartney, che è sempre presente nelle nostre trasmissioni, è diventato anche un personaggio a sé stante. Esattamente. Comunque dimentico ogni volta che riascolto la sigla, penso ma quanti hanno fatto questi Beatles? E li ho selezionati, sì, sono un po' selezionati perché ce n'erano tipo 115 file di quando ho fatto la sigla. Sì, è stato molto bello, è stato molto doloroso. Hanno campato a Eh sì. E a proposito di come non citare gli del nostro grandissimo Paul McCartney, che appunto è stato un protagonista. Ragazzi, io vi devo dire la verità, pure oggi non me la so preparata la rubrica dei Beatles. Cosa? non ho fatto assolutamente niente, però io ho paura. Iron Man, appunto, ecco, lo so che poi siete pure in combutta voi due. Io ho paura che se tengo fuori Paul McCartney troppo tempo dalle nostre trasmissioni, ho paura che finisce come te, che t'accolli una puntata intera, tipo la prossima se la prende tutta, capito? Si mette a parlare di quando ha conosciuto John, George, Ringo, di tutte le marachelle che hanno fatto. No, di quello ne devo parlare io. Quindi volevo evitare immediatamente questo problema e volevo mandare un brano in omaggio al nostro Paul McCartney, e quindi manderei un brano con cui gli Sister Sisters lo hanno omaggiato. Sister e il brano Sister. Proprio loro, quelli con le forbicione grandi come quando la Roma ha vinto lo scudetto. Mi hai deluso, ragazzi. Scusa Iron Man, hai ragione, però non fate combutta poi con Paul, eh. Io manderei il brano degli Sister Sisters che si chiama Paul McCartney su Radio Forte 100 Celle Avengers. We'll be right back. Saluto da Luciano Ligabue, state ascoltando Radio Forte, questa è 100 celle Avenger. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 celle Avengers è arrivato il momento della cultura, ma soprattutto della maestra Viola. Sì, bambini, ma la maestra Viola non c'è. Però la maestra Viola ha portato qualcosa. Però è post prodotto. Molto bene, bambini. Poi, tra l'altro, ascoltiamo un po' a busta chiusa, non sappiamo neanche se è qualcosa per voi o qualcosa per gli adulti, perché ormai la maestra Viola ha preso un po' il via, ma non vi anticipo nulla, nel senso che comunque parla anche di cantautorato, non solo di voi bambini che state sempre in mezzo. Ma poi è incredibile. Ma a me mi sembra che... Sì, prego, prego. No, volevo solo dire come questi bambini piangono e ridono a comando, cioè vabbè, incredibile. Cioè, è assolutamente fuori dal normale, ma soprattutto è incredibile che si parli di questa rubrica senza aver lanciato la sigla. Lasciatemi leggere, vorrei sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Ciao amici di 100 celle Avengers, chi vi parla è la vostra maestra Viola. E anche se non sono presente con voi fisicamente oggi, comunque voglio contribuire recitando la consueta poesia. E oggi stamattina pensavo appunto a quale portare e sono stata ispirata dal tempo atmosferico e quindi mi è venuta in mente la bellissima poesia di Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto, da non confondere con La pioggia al pigneto, che sicuramente starà cadendo ora, come in tutta Italia. Taradum. La pioggia nel pineto. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto astrale non impaura, nel ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia, come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che nome è Ermione. Ascolta, ascolta, L'accordo delle aree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non so de voce del mare, or so de su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sicché par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita in noi fresca, olente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi sono come polle tra le erbe, i denti negli alveoli con come mandorle acerbe. E andiam di fretta in fretta, or congiunti or disciolti, e il verd vigore rude ci allaccia i malleoli, ci intriga i ginocchi. Chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti, silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, Ermione. Ok, ragazzi. Grazie mille, come sempre, per questa opportunità. Ma bomba! E buon proseguimento di puntata. E io sono qui che vi ascolto. Vi voglio bene. Un grande bacio. A presto. Ciao. E ringraziamo la maestra. Il profumo del caffè al mattino è un piccolo rituale di felicità. La maestra Viola per averci riportato alla cultura con un autore caro alla sinistra, devo dire, D'Annunzio. No, vabbè, allora facciamo chiarezza, non è possibile poi che si banalizzi come al solito, si dica che D'Annunzio è di destra o è stato di destra. Lui ha dato proprio ispirazione a Mussolini su come parlare, e quindi grazie, però cioè, comunque ha scritto La pioggia nel pigneto, quindi nel pigneto ringraziamo comunque il tentativo della maestra Viola di riportare a sinistra qualcuno che è peggio e più meno sdoganabile di Iron Man. No, ho capito, veramente c'è qualcuno peggio di te, Iron Man, però tu sei più attuale, D'Annunzio nessuno se lo ricorda. Comunque, e quindi per questo è valore che noi diamo alla nostra trasmissione, grazie a Music and Poetry che si va a chiudere. Ma una diatriba tra Iron Man e D'Annunzio, non ho capito bene cos'era. Raga, fatemi costruire passo dopo passo. Io lo so che, cioè, infatti adesso è il momento in cui noi, in chiusura, richiamando un autore caro alla maestra Viola, che comunque salutiamo e ringraziamo per il contributo, vi riparlo un'altra volta dei devices, ma sempre intesi come i mezzi di comunicazione che si utilizzavano per comunicare, appunto. Se prima abbiamo parlato del telefono, adesso andiamo a parlare di un'altra cosa. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17.43, quasi se ne va questa meravigliosa prima ora con voi in formazione ridotta ma sempre arrembanti sul pezzo come piace a noi. Comunque sei siamo bravissimo. Sempre più della metà. Dai. Cioè quando vi faccio i complimenti dite qualcosa. Era barbaro, era barbaro, era barbaro, era barbaro. Barbaro. Che ne so, poi dite no, che non valorizzo la crew. Che cosa succede? Oggi sento quasi che non ho bisogno del pezzo di carta di Virginia che normalmente mi dà il là per partire con le cose, perché so che tocca a me. E qui... Grande! Grande! L'hai quindi... saputo tramite il pezzo di carta di Virginia. Quindi l'unica Scusa. Difficoltà... No, prego, prego. L'unica difficoltà è trovare la sigla, che comunque... c'ho sotto mano. Quindi questo è il momento di Rise and Fall. Questa è la sigla. Seriale non ci sto più. Lasciamoci. Lasciati un giorno con essi dire addio. Lasciati, qui non ci sto. Poi. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra bella valle. Lo manda. Ricominciamo. Siamo poco sotto la cenere. Ci sarà un cicchio aspettato ancora. Ma che si chiude? La la la la la. Inseparabili. Bene, al terzo o quarto appuntamento di questa neonata, anche lei, rubrica Rise and Fall, che si occupa di scioglimenti e reunion, in poche parole... Perché non lo sai che il mondo è fatto a scale? Chi le scende e chi le sale, santità. Esattamente, quel su e giù che ormai ci ha abituato, insomma, nel mondo della musica, a vedere gruppi anziani che si riuniscono o gruppi anziani che si sciolgono, e soprattutto a vederci il business dietro, per cui ci sono grossi concerti di scioglimento, grossi concerti di reunion, soprattutto tour di reunion. Allora abbiamo poi parlato di gente che ce l'ha fatta, tipo vabbè, alla fine abbiamo sdoganato come buona quella dei Duran Duran come reunion, cioè credibile, è un gruppo antico degli anni 80 che chi si ricorda, bella per lui ovviamente, e che sono tornati, cioè hanno retto circa 3 album, un po' di tournée, quindi cioè, hanno veramente ricominciato e non fatto l'operazione, diciamo, di marketing. Chissà se lo stesso può dirsi del gruppone, del colosso che prendiamo in esame oggi e che mette soprattutto in difficoltà me. Sono i Genesis. Perché mi mettono in difficoltà? Perché io stesso, per motivi anagrafici, li ho approcciati in una maniera bislacca. Cioè maestro. Cioè, io lo so che dico una banalità, ma tanto ormai siamo qui, tant'è. Sai quando tu conosci un artista per il suo nome e dici, cioè, senso, ti piace, vedi che viene molto spinto, molto seguito, però dici, vabbè, in effetti come mai questo, con questo nome X anonimo, perché faceva parte di un gruppo. Quasi sempre questo succede quando fa parte di un gruppo costui. Allora l'esempio non arriva se non faccio un esempio vero: Robbie Williams. Quante persone hanno conosciuto Robbie Williams come Robbie Williams, il grandissimo RV, addirittura tipo Valentino Rossi VR, lui RW. Tra l'altro saluto Valentino, che si è ritirato dalla moto. Mi sono divertito molto comunque. Vabbè, niente, ha avuto un fonico d'eccezione. Diciamo, Robbie Williams, per molti che sono nati dopo una certa... non vuol dire mica Take That. Cioè, voi date per scontato che tutti ricordino che lui era uno di quei 4-5 ragazzotti che andavano a sgambettare. 4-5. 4-5 inglesotti minchioni che facevano questo gruppo corale. No, per lui, per voi è Robbie Williams. Lo stesso accadde per me con Phil Collins, semplicemente. Phil Collins per me era questo anzitutto. Sentire gli anni 80 che entrano nelle vostre vene? Ecco, io sono piccolo, quindi mio fratello si sentiva Phil Collins e per me Phil Collins era Phil Collins. Non pensavo che fosse i Genesis, cioè il batterista dei Genesis, che a un certo punto si era staccato dopo tutto un excursus, una via crucis, una roba che adesso Silvano ci racconta. Io posso introdurmi con un aneddoto a gamba tesa. Prego, prego, prego. Come ho conosciuto io Phil Collins? Prego, prego, prego. Dalla nascita, ho un fratello più grande di me di 11 anni che mi chiamava Phil Collins solo perché ero piccolina e senza alcun capello. E quindi io sono diventata Phil Collins appena nata. Ma tu eri consapevole del perché, quindi? Avevo qualche mese, quindi. Ma però questo ha contribuito a fartelo odiare comunque. Un po'. Ok. Ma quindi praticamente anche tuo fratello ha conosciuto i Genesis tardi, o comunque Phil Collins tardi, perché lo no, sai. No, mio fratello è Peter capellone. Gabriel, proprio Peter Gabriel, quindi non entriamo in questo. Ma quando Phil faceva il batterista dei Genesis era capellone, non te lo ricordi? Bello, vabbè, però farpone. Quando sono nata io nell'86, no. Certo, è calato un po' tutto. Esatto, comunque. Ma io che dovevo dire che mi sono scordato. No, niente, se mi mettete a litigare è chiaro che la gente a casa non capisce. No, scherzo. Anzi, voi siete praticamente i due bastoni della mia vecchiaia in questo argomento, perché io in realtà, appunto, dei Genesis, ripeto, non sapevo molto. E comunque la seconda anima, oltre a Phil Collins, di questo gruppo era questa. E niente, si è rotto tutto. Forse l'ho presa un po' da prima, però il beat ci aiuta comunque a metabolizzare sempre gli anni 80, però visti dal punto di vista di Peter Gabriel. Ora, io quello che voglio dire, oltre al fatto che poi ho conosciuto più gente che era pro Peter Gabriel che non gente che fosse pro Phil Collins, quindi poi mi sono trovato in minoranza, soprattutto qui al Forte, saluto Walter. E, volevo dire che c'è stata Star Union, questo è il discorso, cioè, ma perché ne stiamo parlando? Perché i Genesis, che hanno un'età diciamo quasi doppia del Forte Prenestino, no vabbè troppo, comunque sono abbastanza vecchiotti, si riunionano, e però Peter Gabriel no. Cioè Peter Gabriel dopo tutti sti anni, nonostante non si possa attribuire la cosa ai soldi, cioè perché comunque tutti e due, se voi conoscete questo pezzo, ci avrà fatti due spicci pure Peter Gabriel. Insomma, comunque non è una questione che... è proprio che non gli va, è proprio che gli sta proprio ancora lì sul groppone, e anche che hanno fatto Star Union, dai, grande, vanno solo Phil Collins e gli altri, e Peter Gabriel ha detto di no. Silvano conosce caso. Vari motivi per cui questo potrebbe essere successo. Guarda, prego. Io capisco perfettamente il nostro Peter Gabriel, perché un gruppo di cui tu sei il frontman e che ti dice hai stufato a fatte cambi palco, hai stufato a cambiarti i vestiti, hai stufato a trasvestirti in ogni modo e a puntare l'attenzione su di te, ma come fai? Ma com'è possibile? Ma io sono il frontman, che cosa devo fare? Cioè io capisco Peter Gabriel, ha perfettamente ragione a essere rancoroso. Tra l'altro lui è uno che non è rancoroso per niente, no? Ti raccontavo quell'altra storia. È un segno di terra. probabilmente sì, insomma. E quindi il motivo principale è stato proprio quello. Poi è chiaro che da lì lui ha detto ah, allora io non devo stare sopra voi, allora sapete che c'è, io me ne vado per cavoletti miei. E però gli è capitato, gli ha detto un po' male, perché gli ha fatto in un gruppo in cui il batterista era talmente forte che sapeva pure scrivere pezzi, e pure i Genesis post Peter Gabriel hanno fatto dei grandi pezzi e delle signore hit, hai capito maestro? Mi stupisce comunque come questa cosa possa rimanere nel tempo, cioè questo primismo, questo arrivismo, sono io il frontman, quando comunque appunto cioè ormai tu fai una roba che ci entrano dentro non so quante migliaia di persone a riempire palazzetti su palazzetti, solo perché te hai deciso che tramite un Twitter che tutti hanno letto che forse vi riunite, cioè ma ti rendi conto? Vabbè niente, questo lo dicevo per Walter sempre. Comunque ci finiamo di ascoltare Monkey e poi andiamo avanti. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, abbiamo sciolto il nodo atavico riguardante i Genesis. No, non è vero. No, io volevo solo dire che però che cioè possiamo. Prego. Ha preso tutti questa disamina. Naturalmente, questa disamina. Sì. Il soppalco tremava per come ballavi, cioè io non ti ho mai visto. A parte che eri l'unico che si è gasato veramente perché cioè, vabbè, su Dio mi ha un po' lanciato. Sì, comunque era per farvi sentire qui con noi, insomma, un soppalco tremante. Annotiamo anche questo problema strutturale del soppalco, che in effetti appena si fomenta uno fa pensare che potremmo non arrivare a fine puntata. Bello. Ma oggi possiamo ballare sul soppalco perché sotto non c'è Ariel, quindi solo per questo non c'è Ariel che sta rosicchiando i pali per farci cadere. No, ci pensiamo noi. Ma questo è il momento in cui un'altra delle nostre realtà, in sostituzione di se stessa, ci ha mandato un post prodotto, e questo è il momento della neonata rubrica, aiutatemi a dire, Nord del Nerd. Nord del Nerd. Cioè, che potrebbe anche essere riassunta con... Il Nord. Da una parte... Del Nerd. Dall'altra. Oppure sintetizzando un attimino il concetto, il Nord del Nerd. E quindi lancerai su Radio Forte la sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte. Certo c'è l'Avengers, c'è una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Good morning Vietnam! Oh no, faccio sempre questo errore. No, è un'altra trasmissione. Diciamo, benvenuti alla terza puntata del Nord del Nerd. Oggi mi è proprio impossibile non parlare di una serie in particolare. Dai, che lo sapete. Dai, anzi, aiutino, dai. A meno che non viviate in Groenlandia, chiusi, non lo so, in un igloo, eppure in quel caso forse il massimo che avete da fare è guardare Netflix, vi sarà stato impossibile non accorgervi dell'uscita della serie animata di Zero Calcare, Strappare lungo i bordi. Orega, non so da voi, ma qui c'è stata una promozione esagerata. Roma era tappezzata di manifesti da cima a piedi. Tra parentesi, andateveli a cercare su internet perché sono una cosa fantastica. Sui social non si parlava d'altro, una cosa più chiacchierata delle dirette di Conte ai tempi del lockdown. Te lo ricordi, signò? Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Mamma mia, raga, che tempi, cioè il signore Danelli ci spicciava casa. Ecco, così, ma di più. Credo che Netflix abbia pagato la qualunque, pure Mizia quella pelata, per parlarne e recensirla. E devo dire che nonostante la sindrome dell'amico fomentone, stavolta in versione media, mi è piaciuta molto. Chiaramente sono di parte perché mi piace Zero sin dagli albori. Tra l'altro è anche di casa qui al Forte, a quanto si legge sui suoi fumetti. Quando cominciai a frequentare il Forte ero sicura che prima o poi l'avrei incontrato in sala da te. Ma ovviamente non è successo mai, anche se una volta l'ho pizzicato dal veneziano insieme addirittura agli assalti frontali al Muro del Canto. Bellissima quella serata. Comunque, Zero, fatti vedere qui e quando ci sto io possibilmente. La serie è praticamente un lungo film che si vede in un paio d'ore, diviso in 6 episodi, e ha tutto quello che serve. Fa ridere, fa piangere e tocca forte i cuori di noi nati a Roma negli anni Ottanta, perché c'è una piccola, o forse grande, parte di Zero che nonostante le esportazioni, le traduzioni e il suo successo planetario, beh, quella parte la capiremo davvero solo noi. Sono i vicoli di Rebibbia, Centocelle, il Forte, il G8, Kenshiro e il disagio di una generazione senza sfide, senza grandi sconvolgimenti, guerre, che vaga nella continua precarietà lavorativa, sempre nel dubbio, sempre instabili, sempre con la sensazione di camminare su un pavimento coperto di uova. Vorrei citare un passaggio della serie che mi ha colpito come un cazzotto. Ve lo dico prima che è spoiler, quindi se non volete sentire abbassate il volume per un minuto. Vado, eh? Così, lasciandomi a riflettere sulla mia vita congelata, e me ne rendo conto che forse tutto questo sgomento nasce da un grande errore di valutazione. Che io, per un sacco di tempo, pensavo che se non strappavo più un cazzo, se tenevo tutte le bocce ferme, immobili, almeno non facevo altri danni. Solo che non funziona così. Perché se tu tieni lo stesso foglietto di carta in mano per 10 anni, pure se non lo strappi, quello si ciancica, te sudano le mani, si fracica, o pieghi a forma di ranocchia. E il risultato è che dopo 10 anni c'hai comunque una cartaccia da buttare, pure se hai giocato a fare la statuetta di cera. Raga, meraviglioso! Se non l'avete vista, andate a vederla adesso. La colonna della serie è molto varia. Roba punk, tipo Gli Ultimi, che non conoscevo, tra l'altro meravigliosi e che sentite in sottofondo. I Band of Horses, Billy Idol, Tiziano Ferro, Manu Chao. E mentre i brani originali portano la firma di un amico di vecchia data di Calcare, Giancane, vero nome Giancarlo Barbati, romano, classe 1980, sempre la migliore. Giancane ha avuto successo come chitarrista della band folk rock Il Muro del Canto, per poi passare alla svolta solista con Vecchi di Merda del 2013, la canzone che lo rese celebre. Negli anni si è costruito un curriculum di tutto rispetto. Il sodalizio tra Giancane e Zero Calcare è nato nel 2018 durante la realizzazione del video del brano Ipocondria, featuring Rancore, che ha costituito la colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine, prodotti dal fumettista nel 2020 e presentati a Propaganda Live, il talk show di La 7, condotto da Diego Zorobianchi, durante il lockdown. Mamma mia, raga, sta serie, se avete vissuto quel periodo come l'ho vissuto io, vi farà troppo lockdown. Ecco per voi il pezzo che fa da sigla alla serie, Strappati lungo i bordi, di Giancane. Te lo ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, e a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. Qualche anno fa, quanto eravate sordi, e noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. E sono giorni che non sogno più. Sarà che forse sto crescendo anch'io. Ti strucco un'altra sigaretta mentre tutto intorno scorre. Solo io rimango immobile. Ma sembra tutto giusto, è tutto giusto, e io piuttosto credo sia tutto giusto. Ma è tutto giusto il mio disgusto. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Cell Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, scavallata la prima ora di divertimento incredibile. Sono le 18.04 di questo 27 novembre 2021. E abbiamo dato sempre. Io quando faccio così tutto quello lucido, poi perdo il. Non so che devo dire dopo. Però la faccio bene, almeno mi dite se la faccio bene sta parte. Viene sempre meglio, sempre più fluida. Sei professionalissimo. Grazie, grazie. Scusa, Iron Man, lo so che te la faresti meglio. È vero. Comunque, che cosa succede, Virgi, detentrice del foglio? Cosa succede? Succede che stiamo entrando di nuovo nella rubrica rubriche. Allora, è vero. Cioè, l'antefatto è che noi stavamo quasi per non andare in onda, si diceva in chat, ma che famo, rimandiamo. E Virgi anche, in effetti, forse stanca per il lavoro, fra quelli che diceva, beh, se rimandiamo comunque non sono proprio contraria. Quando abbiamo deciso di non rimandare, Virgi ha fatto una rubrica nuova, due rubriche vecchie e 5-6 pezzi di selezione musicale. Questo da per 0 dire, a 100. Per dire che, insomma, quando dice faccio una cosetta, è fedele. Ma è una cosetta lo stesso, ma figurati. A me quella dei Beatles mi è piaciuta tantissimo. È bella, Era veramente la più bella rubrichetta che abbiamo mai fatto. Grrr. Io aspetto con ansia i bassi oggi, colpi bassi. Bella lunga. E quindi... Ma anche questa nuova che ci proponi, Virgi? Eh sì, stiamo per introdurre una nuova rubrica. E la nuova rubrica, diciamo, si basa sul fatto che in questo periodo ho dovuto mettere in pausa una parte molto importante della mia vita, cioè la danza. E quindi perché non proporla alla nostra trasmissione del cuore, no? Ne avevamo già parlato della danza alla radio, Virgi. Sì, ne avevamo già parlato, ma adesso ne inizio a parlare bene, comandando io quello che devo dire io e quello che dovete ascoltare voi. Ma perché vorresti dire che c'è pure la sigla, magari? C'è pure la sigla, l'ho fatta, sì, ebbene sì. Quindi possiamo... Batmo de gage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical senza la danza. Capito? Ok, Virgi. Scusa, ero troppo ansioso di mandare sta sigla. Non ti ho fatto dire neanche il titolo della rubrica. La rubrica è Video Dance on the Radio. Cosa abbiamo appena ascoltato? Abbiamo ascoltato delle cose pochissimo autoreferenziali, insomma. No, un piccolo estratto della puntata numero 12, se non erro, sì, che invitiamo sì. tutti ad andare a riascoltare, perché forse è quella dove ci siamo impegnati di più. Beh, sì. Cioè, almeno dal punto di vista creativo, puntata che tratta del musical e che trattava appunto della danza in radio. Sì, avevo trovato questo espediente fantastico, avevo tra grandi virgolette, perché sono stata come al solito imboccata nella sceneggiatura scritta di quella grandissima puntata ammazza che avevamo fatto. E comunque l'espediente per portare la danza in radio è chiaramente il tip tap, e quindi diciamo che è stato riproposto in questa sigla proprio per affetto e per giustizia. Pionieri del mezzo. Certo, sempre. E quindi di cosa ci parli oggi? Di cosa vi parlo? Questa rubrica è una rubrica che diciamo andrà a trattare di danza diciamo accompagnata alla musica che andremo ad ascoltare. Noi parleremo di musical, parleremo di grandi artisti che appunto sono artisti a tutto tondo, ballerini, cantanti, performer appunto al 100%. Eh sì, siamo andati a parlare. Se dice a tutto tondo, io lo so dove si va a parare. Vediamo se ci ho preso, vai. A tuttissimo tondissimo, c'è sempre lui. E diciamo che insomma parleremo di videoclip e troveremo una nuova chiave di lettura quando andremo a vedere i nostri videoclip ballati per guardare e non soltanto ascoltare quello che diciamo ci viene proposto. E in questa puntata parleremo di... Oh! Michael Jackson, Thriller! Oh, wow. Chiaramente andremo a parlare del videoclip che ha, diciamo, formato le coreografie di tantissimi videoclip a loro volta iconici. Possiamo pensare direttamente a Everybody dei Backstreet Boys o anche a Bad Romance di Lady Gaga. Questi video iconici a loro volta appunto si sono completamente rifatti, almeno nella coreografia, al grandissimo Thriller di Michael Jackson. E hanno fatto molti soldini grazie a me. Anche loro, sì. Paul McCartney non ha mai fatto un video simil Thriller, oppure, ma devo cercare. No, Paul no. No, ma anche nei film, vero maestra? Anche in 30 anni in un secondo c'è tutto Thriller. Sì, ma quella è la coreografia originale. Io sto parlando di video che si sono rapportati allo stile coreografico di Thriller. Infatti Thriller aveva una coreografia che era appunto pioniera in quel momento. Innanzitutto perché nessuno aveva mai fatto un videoclip che fosse anche, diciamo, accomunabile a un cortometraggio. Perché se andiamo a vedere la versione originale di Thriller, c'è tutta una parte recitata fantastica all'inizio. E l'idea a Michael Jackson è venuta perché aveva visto il film di John Landis, Un lupo mannaro americano a Londra, e c'è tutta la trasformazione del lupo mannaro che viene proprio riproposta sullo stesso Michael Jackson. Quindi noi innanzitutto abbiamo un vero e proprio cortometraggio di un regista eccezionale. Abbiamo Vincent Price, una voce horror inquietantissima che legge e che recita nel video tutta la parte appunto parlata, ma soprattutto appunto abbiamo la parte coreografata che è, diciamo, che inserisce delle parti molto weird e molto scattose, con dei movimenti molto robotici in questi personaggi che appunto li ritroviamo a fare gli zombie perfetti. E appunto hanno ispirato un po' tutti quanti, tanto che comunque nell'84, data di uscita, non so se dell'album o del singolo, perché sono usciti in due anni diversi, sto parlando del videoclip, vinse gli MTV Music Awards, quindi come miglior coreografia. Quindi sì, stiamo parlando del videoclip. Ta-da. E niente, quindi Epifania. già. E quindi con questa chiave di lettura potrete andare a vedere questo fantastico videoclip che invece andremo ad ascoltare in questo momento. Quindi, maestro, Thriller. Allora, dico soltanto, no, cercate di immaginare. Che bello il lancio di Sorry. In the dark. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, il momento che tutti temono, no, solo che io temo. È il momento del diritto. Ho detto che sono molto grinch ora. Ma perché sei grinch, scusa? No, beh, si avvicina il periodo natalizio, non lo so, forse non sono pronta, quindi... Ma cuoque tu, scusa, che poi santifichi abbastanza. Vabbè, lasciamo perdere, non facciamo... Sì, i panni si lavano in privato, ma in questo momento siamo... I regali a Natale. Siamo in ambito pubblico e quindi il nostro avvocato introduce da sola la propria stessa medesima rubrica. Una nuova puntata dei Cigni di Balacà, iniziamo con la sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni del Balacà? Bene, bene, bene, eccoci tornati in diretta su Radio Forte, una nuova puntata di Cigni di Balacà. Che sappiamo tutti, parla di, tratta generalmente di plagio, quindi casi di plagi di brani musicali. Oggi però, visto che abbiamo detto sta puntata si fa, non si fa, io la verità è che il caso di plagio non ce l'ho, non me lo sono preparato. Scandalo! Cosa? Scusa Iron Man, è vero, non lo sapevi neanche tu. Siete dei ciarlatani. Lo sapete, so metti gli Short Sisters. Sì, cioè, pure io ripiego così. C'è quindi tu. Delusione. Ma non vi preoccupate, ovviamente ho pensato a qualcosa di splendido e unico per voi e quindi mi sono buttata su argomento generico, sempre in tema di diritto d'autore, non temete, ovviamente. E per esempio anche l'altra volta parlavamo di campionamenti, vi ricordate, ecco, questi temi un po' più, argomenti un po' generici e delle licenze che si devono ottenere per realizzarli. Questa volta l'argomento invece lo per la scelta dell'argomento di oggi mi sono ispirata alla rubrica nuova che abbiamo appena ascoltato, che Virginia ci ha appena presentato. Sono onorata. Perché la potente Virginia mi ha intrigato molto questa idea di dare valore ai videoclip che stanno dietro a alcuni brani famosissimi, appunto abbiamo sentito Thriller e insomma lo sappiamo tutti quanto questo video sia stato anche un po' portante, ecco, rispetto al brano, ecco, ha un valore anche a sé. E quindi io ho deciso di parlare di sincronizzazioni, questo argomento appunto del diritto di sincronizzazione, che forse ci interessa. E perché? Perché se appunto nel caso che ci raccontava Virginia il concetto era appunto quello del potere evocativo delle immagini applicate alla musica, esattamente, diciamo, tanto valore, tanta importanza vale anche il contrario, ecco, quindi è fortissimo il potere evocativo del suono applicato alle immagini, quindi della musica applicata alle immagini, e questo è proprio il focus, quindi, della rubrica di oggi, questo diritto di sincronizzazione. Diamone subito una brevissima definizione. E che appunto, quindi, la sincronizzazione della musica è la facoltà di abbinare un'opera musicale ad una sequenza di immagini, appunto al fine di crearne un'opera audiovisiva, che poi sarà un film, sarà una serie, un documentario, una pubblicità, appunto uno spot, addirittura un videogame. Quindi quando noi estrapoliamo, prendiamo un brano, lo applichiamo a una sequenza di immagini e ne facciamo un'opera altra, diversa, che è appunto un prodotto audiovisivo. Bene, dato che ovviamente ci interessa sempre scoprire dal punto di vista della legge cosa succede in questi casi. IAM, abbiamo coniato questo acronimo, importa a molti. Importa a molti. E allora ve lo dico, è necessario munirsi anche di una serie di licenze anche in questo caso, perché in primo luogo è il produttore dell'opera audiovisiva deve ottenere il diritto di sincronizzare l'opera musicale che andrà a confluire nell'opera audiovisiva. E quindi deve essere questo, diciamo, diritto di utilizzare l'opera in sé deve essere chiesto direttamente all'autore, naturalmente, o più comunemente al suo editore. Però questa spesso non è l'unica licenza che è necessario ottenere, perché, cioè, meglio, non è sufficiente. Quanti ci devono mangiare? Quanti altri? Perché, diciamo, questa è sufficiente solo in quelle rare, rarissime ipotesi in cui il produttore video registri autonomamente o con l'aiuto appunto di altri musicisti l'opera musicale in questione. Quindi tu chiami qualcun altro e dici: oh, guarda, c'è questo bellissimo brano, si chiama Cigni di Balacà di Albano, risuoniamocelo noi. mettiamolo in questo, in questo film, in questo documentario, spacca, allora dobbiamo chiedere l'autorizzazione solo ad Albano in questo caso. Se invece decidiamo di usare proprio il master, quindi la registrazione, il fonogramma in cui è stato fissato i cigni di Balacà, e allora dovremo chiedere anche l'autorizzazione, quindi la licenza, alla casa discografica di Albano, che oramai chiaramente tutti conosciamo. Io non sono preparata, questo non lo so. Sono diventati tuoi migliori amici. La storia dei dati rubati, che non lo sai qual è? No, la casa discografica me la sono scordata. Mannaggia, veramente. E prima di passare all'ascolto dei brani che ho selezionato per l'occasione, per voi, voglio solo precisare questa cosa, che nel caso della sincronizzazione, trattandosi appunto di un diritto di elaborazione, cioè si tratta di una rielaborazione di un brano, e andiamo a toccare appunto il diritto di elaborazione, che è l'unico che non passa attraverso la SIAE, praticamente, vedo sta notizia. Cioè, se sì, non c'è mai. Il diritto di sincronizzazione, no, non è uno di quelli, di quei diritti che viene concesso, che si dà in mandato alla SIAE. Quindi, se vogliamo sincronizzare un brano, andiamo a bussare direttamente alla porta dell'editore o della casa discografica. E quindi bypassiamo SIAE. Dico SIAE, ma chiaramente sbaglio, perché adesso con la liberalizzazione del mercato delle delle collecting society, come sapete, ci sono altri competitor sul mercato. Per esempio Soundriff, vabbè comunque non andiamo avanti. La vedo in difficoltà. No. Oggi non abbiamo messo la stanza, non si può vedere, ma prego. Oggi. Tanto abbraccio. Solo oggi. No, questa cosa di, diciamo, chiedere l'autorizzazione direttamente all'autore ha una ragione, se ci pensate, perché ovviamente ne va anche della reputazione di quella persona in qualche modo, nel senso, tu vuoi che il tuo brano sia applicato al mio film, al mio documentario, e allora insomma, o al mio comizio elettorale, alla mia pubblicità. Cioè, pensa per esempio se ai Profilax gli chiedevano: venite, volete che il vostro brano lo mettiamo nello spot dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica? Ma qui si torna sempre sulla questione poi Tarantino Morricone, cioè Tarantino forse proprio a Morricone chiedeva i brani e Morricone diceva: no, te ci metti troppo sangue sotto, io non ci voglio sta roba. No credo quello. Che fra di loro, beh, no. Ma può essere. Poi mi hanno indagherò fatto pace, su questa cosa con tramite Elisa, però no, potrebbe essere, devo indagare. Cioè, ma queste cose ve le dovete decidere per la prima, prossima comunque. Vabbè, quindi diciamo, vi volevo dare anche questa chicca in più, questa curiosità, ma possiamo passare quindi agli esempi che ho individuato. Beh, comunque appunto, scusa, prima degli esempi, appuntati di segnarci un preventivo su quanto costerebbero ognuna delle nostre sigle. A quanti devo dare i soldi in teoria per le sincronizzazioni che gli autori in realtà ci hanno offerto spontaneamente? Io ci ho parlato, però con se uno, tu mi dici uno che poi devo uno. Parlare con Tizio Caio di produzione, facci capire, faccio un preventivo, per casomai come a Ronne Piverno sarai remunerato. Beh, questo discorso lo dovevi fare comunque con Guido e con Jorge il mentiroso. Sì, innanzitutto lo so. Ognuno ha le sue sincronizzazioni, ma prego, abbiamo interrotto un esempio. No, io è così, ero passata ai casi che so che in regia ma sei prego, pronto. Prego. No, con calma. Mi sono concentrata sulla pubblicità, perché sicuramente là il potere evocativo del brano, ecco, della colonna sonora di una pubblicità è rilevante, ecco, lo avvertiamo particolarmente. Quindi volgiamo lo sguardo al passato, anni 90 ovviamente, e io tra le varie, ecco, pubblicità così che mi rimbombavano nella testa, ho deciso di prendere questa, che è del 99, e è praticamente la pubblicità con cui io avevo 10 anni, ho conosciuto i Queen, così, ho conosciuto Innuendo, e diciamo che il fascino di questo brano applicato allo spot e forse anche un po' all'origine del mio attuale amore per il whisky, ecco, e diciamolo. E del mio alcolismo, cioè, no. Momento dell'audio. Ciao mamma. Ciao mamma mia. Ciao papà. E quindi prego regia, andiamo col primo spot. You can be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo, be free, be free. Surrender your ego, be free to yourself. Valentine's, it's what's inside that counts. Meno male che c'era la voce alla fine, sennò veramente. Vabbè, ma ok, non te lo ricordavi che era il Valentine's? No, mo no. Sono ricordato all'ultimo, scusami. Penso però... al potere evocativo, allora non è vero niente. Ho temuto che stessimo mandando i Queen registrati da un televisore a tubo catodico. Sembrava in effetti dall'audio. Sembrava, però invece... esattamente Valentine's. Vabbè, okay. Ci ho fatto proprio fare un tuffo negli anni 90. Così come il prossimo brano che vi propongo. Brano, la prossima. Il prossimo spot che vi propongo non posso che non chiaramente volgere lo sguardo alle automobili e perché no, le spot di macchine sono chiaro. Pieni di bei brani musicali, devo dire la verità, vero, mi piacciono, hanno sempre delle belle colonne sonore, alcune fatte apposta e altre no, come in questo caso non vi dico qual è il prodotto e dico solo che il brano è stato preso da, è stato chiesto a James Brown, prego. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get on up, get up, get on up. Renault Clio MTV, venite a scoprirla con gli altri modelli della gamma. Vabbè, Clio sabato 25 e domenica. No, assoluto, assoluto, se la devo sentire tutta, perché no, ma infatti è l'unico gancio con la realtà, se no siamo dei folli. Sex comunque. Machine. Ma questo sì. È perché tu hai quella macchina? Sì, l'ho fatto anche perché ah, ecco, lo sapevo io. No, è bello che siano state messe vicine due rubriche evocative, Video Dance prima con Virgi e adesso questa edizione di Cigni di Balaga, che comunque è necessario che qualcuno si ricordi questo Get Up, che era un era milione, diventato un Get Up. Io voglio sapere che a James Brown gli è stato detto: guarda, hanno fatto uno spot con uno che fa Get Up a mezza strada, cioè lo voglio proprio vedere, che dice yeah, yeah, yeah, ok, that's okay. Io la trovo comunque cioè tipo geniale. Guarda che la Renault avrà speso un sacco di soldi per metterci solo quel Get Up, anche quei pochi frammenti. Sì, ma a proposito del rivolgersi direttamente all'autore, voglio proprio vedere che abbiano fatto in questo caso. Però purtroppo James il vecchio Giacomo Marrone non c'è più. Vuoi fare una scenetta, vero? Una scenetta con James Brown, vero? Manderò una lettera agli eredi e chiedo, manderò. Va bene, comunque anche oggi Cigni di Balaga ha scavato. O continua a scavare? Sì, no, va in conclusione perché ecco, no, a questo punto io avevo immaginato di attualizzare il tutto e parlare di quella che è la serie tormentore del momento, ma poi effettivamente Betta ne ha già parlato lungamente e benissimo. Tra l'altro mi è molto piaciuta questo suo omaggio non solo a Zero Calcare ma anche allo stesso Giancane, che io volevo appunto valorizzare pure come artista, autore che sì, scelto da Zero Calcare per la sigla di questa sua splendida serie. E non ascoltiamo quindi nuovamente Strappati lungo i bordi di Giancane, ma un altro suo celebre brano molto bello che si chiama Ipocondria, e Giancane featuring Rancore. Cosa farò? Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita, la tachicardia. E adesso cosa farò? Son certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita, la tachicardia. È solo ipocondria, questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria, questa malinconia. Guardo la sorte che bussa alle porte, ho l'ansia, mi sale, la sento più forte. Il cuore mi batte a tempo di morte. Ho una patologia. Adesso cosa farò? Son certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua lingua asciutta è partita la tachicardia. E adesso cosa farò? Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male. Lingua asciutta è partita la tachicardia. È solo ipocondria questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria questa malinconia. Ah, la mia malattia è il nome che porto. Aspetta, riparti, va. La mia malattia è la tosse che porto. Dico sempre che l'ho presa ieri. Quante orecchie non reggono lo sporco. Ho le rime piene di batteri. Guardo questo cielo, tu non torni. Sei la mia malattia quando non mi chiami. Se ti dico che io muoio tra due giorni, forse ti vedrò un'oretta dopo domani. Siamo un gruppo di ragazzi strani, a volte ammalati, disinformati. E voi siete nati imparati, belli, perfetti, fermi, impalati. Bene, perfetto, scrivo del nulla, tranne di un mucchio di insicurezze che a me mi accarezzano sin dalla culla. In mezzo alle urla, Gic, Gunda, datemi ancora un aiuto, sono il recunta di ansie che libero al volo. So che se poi morirò sarò muto. Pensavo di farlo in un po' di decoro, ma non lo farò a casa mia, anche se poi casa mia è grande al massimo come uno sputo. Eppure un dottore che grazie a me può pagarsi il mutuo, dicendomi solo che è solo ipocondria questa malinconia, ma è solo ipocondria questa mia nostalgia. È solo ipocondria questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria questa malinconia. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers abbiamo ascoltato quella che poi in realtà era la sigla anche della serie di quarantena che ha fatto, già, che aveva proprio il nome di Rebibbia Quarantine, sempre di Zero Calcare. Abbiamo fatto questo grosso encomio a una persona. Io volevo dire questo comunque, che nonostante tutto io e Betta ci siamo, io comunque zero ci tenevo a parlarne, invece Betta mi ha rubato. No, io volevo dire che invece siamo sincronizzate. Io volevo dire invece che mi pare che se ne parlava poco sui social, quindi niente, non avete capito la mia battuta, vabbè, niente. Ah, scusa, non l'avevo capita. Faccio parapunts. Sincronizzazioni. Niente, ok. Niente, no, cioè noi ci addormentiamo quando fai quella parte lì, cioè ci piace, ma poi ce la risentiamo dopo con calma. Come le lezioni di fisica che lì per lì prendevi appunti, sbobbinavi dopo, insomma. Vabbè, comunque io volevo raccontare un attimo a Betta, che so che ci starà sicuramente ascoltando, con l'audio vorrei raccontare l'immagine dello sguardo del nostro maestro Daniele, che ha sentito e non ha potuto abbassare per un minuto lo spoiler su strappare lungo il bordo. Ti ringrazia. Grosso ringraziamento a Betta, che comunque già aveva il merito di avermi spoilerato niente meno che Star Wars. Una cosetta. La seconda trilogia. Ce ne vuole a spoilerare, cioè, Star veramente Wars. Una come lei, che comunque a queste cose ci tiene, cura una rubrica che bene o male cura i nerd, a me non mi ha curato, cioè, ha dato per scontato, forse mi ha sopravvalutato, ha pensato che l'avessi visto e mi ha spoilerato una grossa verità che adesso io vi dirò. Beep! Ok, a posto. Stavamo dicendo che adesso si andava di quella rubrica lì che riguarda coloro che si stanno un po' nell'angolo, un po' in disparte, ma poi al saggio ritornano in auge, e sono i solisti. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è. Ed oggi alla rubrica dei solisti andiamo a parlare di una persona a noi molto cara. La prossima volta te sponno. Ho detto a noi molto cara. La prossima volta te sponno. Ok, no, questo non è gentile, comunque è il solista più competitivo. La prossima volta te sponno. Della scuola di musica, il nostro sassofonista Peppino, che noi comunque mettiamo molto in mezzo perché sappiamo che comunque lui è dotato di sense of humor, quindi non sarà la prossima volta ad esporre. E parliamo di, appunto, di quei casi di solismo che non sia cantantismo. Insomma, l'altra volta abbiamo fatto sentire una solista pianista, questa volta abbiamo il buon Peppino, che appunto è la punta di diamante del sassofono della scuola di musica, anche perché è l'unico. Bonci, bonci, bom bom bom. E niente, no, però comunque fin dal 2015, dal saggio appunto 2015 a cui oggi ci appelliamo, eseguiva al saggio brani come in questo caso standard jazz, prima di poi andare a fare le cose trash che facciamo a musica insieme. Lui si portò con il maestro Ilario, che salutiamo, un brano standard jazz che è Satin Doll 2015, che adesso andiamo ad ascoltare per intero. Sempre in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers, non si è visto con quanta disinvoltura ho passato. Ma volevi rifare un'altra trasmissione? No, non volevo fare un'altra trasmissione, però oggi abbiamo le macchine impazzite e appoggiamo i bicchieri di vino sui pulsanti. Meno male che hai detto che siamo in diretta, se no cioè, la gente rimane sconvolta ogni volta che lo dici. Sono le 18.39 del 27 novembre, sabato 2021. Che cosa succede in questo momento oltre a rientrare nei ranghi del che succede il fil rouge e soprattutto ringraziare Peppino che non era stato avvisato la prossima volta te sponno del fatto che avrei mandato la registrazione e, il fil rouge appunto non vorrei che ci smarrissimo la disanimamina che stavamo facendo di tutti i mezzi di comunicazione raccontati dalle voci dei cantanti e dei cantautori. Dai, che li hanno messi in musica e li hanno abbiamo parlato della lettera con caro amico ti scrivo, del telefono. A questo punto sempre lo stesso produttore milanese entra sempre nella stanza e dice: uè raga, questa roba di internet è veramente sfondato, ormai è una roba sulla bocca di tutti, io credo che dovremmo fare un pezzo, voi siete giovani, siete freschi e funzionate molto bene e quindi vi ho fatto un testo che fa così. Every day, every night, every second of my life. Era appunto l'era di internet in cui appunto i Gazzosa, poco consapevoli del loro destino, incarnavano in realtà magari un po' forzatamente sempre quegli intellettuali di cui parlavo prima, gli intellettuali che raccontano il nostro tempo con un quadro, con una scultura, in questo caso con una bellissima canzone che racconta un mondo che cambia, un mondo che se telefonando, altro che se telefonando, da lì in poi si apriva roba di veramente che bello parlare come i vecchi. Dico, mi sento le droni. Vabbè, ormai internet dico maestro, ma questo povero produttore, ma cosa gli è successo negli anni? È partito con se telefonando e poi dalla e adesso mi piaci tu, che cosa gli è successo? Ma guarda, veramente noi inseguiamo i tempi, siamo sempre sul pezzo e mi sembra che questo pezzo racconti un po' l'Italia di oggi, cioè quello che ci meritiamo praticamente, comunque, le diavolerie moderne. Per disclaimer, non si mette più www sui siti, io continuo a dire posso... No, esatto, al di là di Gabri, degli annunci che fa la pubblicità al nostro sito che appunto chiama sempre www.fortepenestino.net, posso dirvi che funziona anche senza il www, ma questo no. Giura. E quindi niente, andiamo in coda di questo meraviglioso pezzo degli anni 90. Ma il cuore sai, con coraggio comunque. Aspetterai. Tutta. Ma lei era fantastica. E capirà. Oh, il batterista era bravo. Gli Hanson italiani, ragazzi. Oh, senti il groove. Tuttavia io andrei comunque a procedere in avanti, cioè, da a tutto si è compreso il concetto. Il produttore milanese comunque ha fatto carriera, ma ha fatto carriera anche la potente Virgi. Ok. Oh sì, è un'altra rubrica per oggi, la sì. Potente Virgi. Questa è quella bella piena di roba di succo. Quella sui bassisti, quindi stiamo per mandare la sigla di Colpi Bassi. Non era vero. E state zitti! Perdonami, Virgi. Ma non ti preoccupare, Iron Man, tu puoi tutto. Non preoccuparti. Allora, di che cosa, di chi andremo a parlare oggi nella rubrica Colpi Bassi? Chi? È un personaggio, è un bassista a cui sono veramente molto molto affezionata. Il bassista in questione è John Entwistle degli Who. E... Oh. ed è il mio primo bassista preferito. Oggi parliamo sempre dei primi per quanto mi riguarda nelle mie classifiche personali. Il mio cervello è diviso in tantissime classifiche, poi parleremo anche di Jurassic Park infatti un giorno, ma in questo caso abbiamo il mio primo bassista preferito proprio cronologicamente parlando, e purtroppo ha avuto una grande rilevanza nella mia vita, perché il giorno in cui io ho comprato il mio basso è stato il giorno purtroppo della sua dipartita, il 27 giugno del 2002. Ricordo quel giorno, sì, come un giorno in cui sono stata un po' folgorata, un po' segnata da questa cosa, e da lì mi sono sentita gli Who a stecca, anche se già me li sentivo parecchio prima, ma insomma sono diventata molto molto diciamo committed alla causa degli Who. Chi sono gli Who? No, vabbè, aspettate, scusate. Troppo bella questa, sì, non l'ho nemmeno fatto. Chi sono gli Who? Umorismo. Me l'ero levata dal discorso dicendo no, non puoi fare una battuta del genere, mi è uscita automaticamente. Ok, vabbè, stiamo parlando di John Entwistle, che è il bassista degli Who, che in realtà sono il vero gruppo più longevo in attività, perché noi parliamo sempre dei Rolling Stones, così. No, noi abbiamo gli Who. Ovviamente parliamo sempre di Beatles, però. vai, scusa. Io. Gli altri, il popolo parla dei Rolling Stones, qui si parla dei Beatles. Chi sono gli Who? Allora, gli Who sono un gruppo che è nato nel 62, sono il vero gruppo più longevo in attività, perché sono ancora in attività il cantante e il chitarrista. Purtroppo, a differenza dei Rolling Stones, loro non hanno assolutamente fatto il patto con il diavolo, e quindi diciamo che sono rimasti soltanto in due. Il batterista Keith Moon e il bassista appunto John Entwistle non fanno più live, mettiamolo in questo modo. Quindi io ho preparato una carrellata di pezzi per conoscere questo grandissimo gruppo, e poi andiamo a parlare del bassista. E prego, maestro, carrellata. He was due home yesterday, but he ain't here. I don't mind. With my people try to put us to death. Talking about my generation. We don't get fooled again. No, no. Teenage wasteland. They're all wasted. 3, 4. E dopo questa lunga presentazione di questo gruppo, che comunque ha fatto veramente una carriera infinita, andiamo a parlare del bassista. John Entwistle è figlio di musicisti. Iniziò immediatamente, da quando era piccolino, a 7 anni, a suonare subito il piano, e si specializzò in tantissimi strumenti, tant'è che lo ritroviamo come chitarrista anche in dei gruppi quando appunto era già cresciuto, già con alcuni membri della formazione degli Who. Suonava la tromba. E a 14 anni si innamorò del basso, ma come abbiamo già sentito con James Jamerson, non avendo la possibilità di comprarselo, se ne costruì uno amatoriale. Ma una grande caratteristica di questo bassista è che era anche un bravissimo suonatore di corno francese, e lo abbiamo sentito in vari pezzi degli Who, e abbiamo qui un esempio con Pictures of Lily. Pictures of Lily. Come possiamo sentire da, diciamo, anche questo piccolo estratto, abbiamo una batteria assolutamente ariosa che, diciamo, ovviamente teneva il tempo, ma il ruolo di persona che doveva tenere il tempo all'interno del gruppo era stato assunto da, appunto, dal nostro John Entwistle. Il suo ruolo si definì nel 62, quando vennero appunto creati gli Who, e non soltanto appunto era un timekeeper in qualche modo, proprio perché la batteria era veramente molto, molto ariosa, ma avevano anche un chitarrista prettamente ritmico, e quindi si occupò anche di essere quella sorta di chitarra solista che in quel gruppo mancava. Ora abbiamo come esempio fondamentale My Generation, che è un pezzo che contiene appunto un assolo di basso, e c'è un piccolo aneddoto: usò per registrare questo pezzo il basso Dan Electro, quello che noi oggi possiamo vedere nelle mani della bassista dei Maneskin, dan dan dan, di cui non parleremo mai in questa rubrica. E, Dissing. Non ho letto nessuna gelosia, proprio, nessuna. No, non leader. È gelosia, per favore. Per favore. E, questo basso aveva una particolarità, ovvero quando si rompevano le corde bisognava cambiare direttamente il basso. Ecco, stiamo per ascoltare l'assolo di My Generation, registrato con ben 3 bassi Dan Electro da John Entwistle. John Entwistle è famoso non soltanto per le sue doti da bassista, ma anche di compositore con derivazione classica, e soprattutto per la sua assurda estensione vocale. Adesso vi porterò un piccolo esempio di due brani in cui noi troviamo la sua estensione vocale verso l'alto, quindi sentirete l'armonizzazione più alta, e verso il basso. E verso il basso è degna del nostro migliore Stick. Questa era la voce di John Entwistle. Il suo modo di suonare il basso era molto duro, e il suono che lui riusciva a tirare fuori dalle sue dita, che di solito appunto erano 3 o 4, lui non suonava soltanto con 2 dita ma suonava anche con 3 o 4 dita, era un suono iper percussivo, molto molto vicino allo slap, e era caratterizzato anche da linee molto solide, anche se erano molto spesso varie. Infatti lui era molto famoso per essere un grande improvvisatore. E, arriviamo al 1968, quando esce Tommy, che è un po' l'album singolo di questo gruppo, un concept album fantastico in cui possiamo ritrovare appunto in John Entwistle delle grandissime doti compositive in tanti brani. E lui si occupò di fare cori, di fare appunto di suonare il corno francese, di fare delle voci principali, ma anche caratterizzate appunto da delle doti attoriali, perché essendo un concept album c'era bisogno anche di portare un personaggio all'interno della canzone. E nonostante tutto questo suo essere eclettico, noi abbiamo in John Entwistle lo stereotipo del bassista musone che stava in disparte e che non muoveva un muscolo se non fosse appunto quello delle dita. Quindi, maestro, come esempio di Tommy, possiamo portare Pinball Wizard. Il suo essere solido appunto si accompagnava molto bene allo stato d'animo che appunto faceva vedere soprattutto durante i live, ma anche nei loro videoclip, che erano comunque fantastici. Poi magari ci pensiamo a parlare anche dei videoclip degli Who, appunto perché erano molto, molto recitati. Ma in questo periodo, e soprattutto dopo Tommy, ritroviamo questo gruppo ad abbracciare completamente la vena rock dura che avevano già iniziato appunto a mettersi addosso nei primi anni 60. Quindi nel 69 noi ritroviamo brani come Won't Get Full Again, che sono appunto un emblema della musica rock. Take a bow for the new revolution, smiling free, adesso ovviamente andiamo a parlare della cosa che io preferisco, ovvero della linea di basso, che per me è la più complessa, è la più assurda, che quando insomma la sento mi si rigira un pochino lo stomaco, perché so che non potrò mai suonarla, perché so che è difficilissima e perché so che nessuno potrà mai essere appunto il bassista di riferimento che sta ascoltando e che sta cercando di suonare. In questo caso si tratta di The Real Me, un brano che secondo me appunto soprattutto dal punto di vista bassistico è un capolavoro, ed è un brano del 69, anche se sembra un brano di parecchi anni più là. E, era un bassista che appunto utilizzava molto l'improvvisazione, ma qui lo troviamo proprio a essere sia solido che appunto creativo, quindi The Real Me. Prima di concludere con il mio brano preferito del gruppo, che io ovviamente cerco sempre di far sentire più persone possibile, volevo parlare un po' dell'eredità degli Who e di John Entwistle come bassista. Lui fu uno dei musicisti più completi del suo tempo, appunto aveva una derivazione classica, aveva capacità compositive, aveva una voce assurda, anche se magari non aveva mai studiato canto, insomma aveva un'estensione appunto assurda. E la sua competenza da musicista completo portò gli Who a essere dei baluardi della musica che poi sarebbe diventata tutta quel tipo di musica dura, tra il metal e il punk, ma anche molto complessa, appunto passando per la loro derivazione classica portata appunto soprattutto da John Entwistle. Noi ritroviamo delle linee molto complesse, ma che oggi noi ritroveremmo tranquillamente in qualsiasi gruppo punk o metal che suona bene comunque. Quindi un esempio che volevo portare è Summertime Blues con il basso. Quindi concludendo, appunto andando immediatamente a parare al mio brano preferito di questo gruppo, volevo raccontarvi degli aneddoti sull'album che contiene questo brano. Il brano in questione sarà Our Love Was e l'album in questione invece è The Who Sell Out, e volevo mandare questo brano un po' perché appunto è fantastico, è molto completo, e poi perché in questo album noi ritroviamo un pochino un omaggio a quello che stiamo facendo noi, cioè è stato concepito come se fosse una trasmissione radiofonica con tanto di spottini tra una canzone e l'altra, quindi è un po' un omaggio a questa nostra trasmissione con tanti cuoricini. E aggiungo anche un aneddoto: in questo album noi troviamo un brano in cui gli Who volevano assolutamente mettere un violoncello da qualche parte nella canzone. E avendo la stessa vena artistica dei Beatles, ma non avendo le stesse possibilità, gli fu negato dalla produzione, appunto. Quindi non avevano i soldi per avere il violoncello e loro continuarono a imperterriti a cantare sello, sello, sello, dove volevano il violoncello nella parte del brano. Il brano in questione non è quello che andremo a sentire, perché adesso andremo a sentire Our Love Was. E niente, in diretta su Radio Forte 100 Cell Avengers abbiamo solo il tempo di salutare, lo sapevo che non finivamo questa disanima questa disamina. Scusa Iron Man, la prossima volta parleremo degli ultimi mezzi di comunicazione. Comunque grazie per esserci stati e la prossima volta andrà meglio. La nostra puntata è anche in podcast su forteprenestino.net. Ciao! Ciao! Ciao!